quello che ci chiede se è il caso di andare e di non farsi aspettare. E allora sì che siamo persi, persi nel nostro tormento, oppure siamo forti, forti come il vento che ci separa sempre da un altro destino. Servono gli angeli, se non hanno un cuore come noi, appartengo ai miei limiti, quelli che tu non hai visto mai. Maltrattato, ucciso, offeso.